si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funky up, uptown funky up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica. Quando sono le 8 e 35 minuti, una nuova puntata di Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, vi aspettiamo all'800 24 00 24 per intervenire, per commentare tutto quello che sentite. Se durante questa ora e mezzo che dovremo trascorrere insieme... Dici dovremmo perché sei raffreddato? Esatto. Perché non è detto che adesso ce la farà fino alle 10. Sappiate che vi ho sempre amato. Milano Monterosa, Carlo. È spuntato uno splendido sole, sembrava non bellissima la giornata, invece adesso sembra bellissima, anche se ricordiamo come consigli della mamma che in realtà fa più freddo di quello che ci si aspetta, perché veniamo da dei giorni dove praticamente era oltre la primavera, era quasi già un'estate, invece è tornato il freddo. Mi sento un po' mia mamma in effetti a dire questo, però è così, mi sono messo la giacca pesante e sono un po' contento perché vedo tutti in giro che invece si stanno prendendo l'influenza. E allora voglio fare un appello per 400 bambini di Palermo che, siccome gli hanno trasferito momentaneamente la scuola perché stanno facendo dei lavori, ogni mattina devono fare 5 km a piedi per raggiungere il nuovo plesso in un pezzo di strada non facile, ed è una mezza odissea. Allora, se si trovasse qualcuno che passa di lì con un pulmino e gli aiuta a fare il tragitto la mattina, l'andata e poi anche il ritorno, non sarebbe male. Sarebbe cosa bella. In quel tratto non passano mezzi pubblici e questi bambini devono passare non avendo l'abitudine a fare quel tratto di strada dove passano molte macchine. Certo. 5 chilometri, sono bambini delle scuole elementari. Ma sono tantissimi. 5 chilometri sono tantissimi. Sono tanti. Beh, quindi, mio padre mi raccontava. Un'ora almeno. Faceva un chilometri col carretto quando erano piccolini loro per andare a scuola, ma erano altri tempi. Adesso direi che un autobus stai quasi troviamo, proponendo dai. Un car sharing, direi, stai quasi proponendo a tutti quelli che passano di lì con la macchina di dare dei passaggi a questi bimbi che vanno a scuola a piedi. Cari ascoltatori, 800 24 00 24 anche per giocare con noi, cerchiamo un personaggio della settimana e il primo indizio che vi andiamo a dare è questo qua. Questo personaggio, che ha una notizia che lo riguarda negli ultimi 7 giorni, è un simbolo. Perfetto. È un simbolo, quindi cominciate a pensare a tutti i simboli che ci sono in giro in questo periodo. Ce ne sono parecchi, però. Guarda, mi sembra già un indizio bello. Più stretto di altre volte, altre migliore volte. Di altre volte. Siamo spesse buoni. Volte diciamo anche semplicemente, non so, è una donna o è un uomo. Quindi direi che siamo molto più avanti. Perché siete di già molto facilitati. Ce ne sono tantissimi, cioè ce ne sono tanti, no, però. Non ce n'è più, volevi dire, in questo paese? Ma no, ce n'è tantissimi, noi siamo Si può fare. E allora, tra poco iniziamo, andiamo in Francia, cominciamo con un Si può fare nel mondo, andremo in Francia e che altro dire? Iniziamo? Iniziamo. Vai. Prima però di fare Si può fare nel mondo, un paio di notizie per cominciare, vi facciamo sentire un po' di voci di questa settimana, perché come sapete nella puntata della domenica vi aiutiamo un po' a ricordare quello che magari vi siete dimenticati che è successo nella settimana. Riepilogo, aiutiamo anche un po' noi stessi, o perlomeno, me. Che non sono giornalista e quindi giustamente mi fa il riepilogo di tutta la settimana. Bravo. Per me è molto utile. Il ripassone ci sta. Allora sentiamo il ministro degli esteri Gentiloni a proposito del caso Regeni. Come sapete alterniamo momenti di mezze schiarite a momenti di buio profondo nei rapporti con l'Egitto, ma insomma sostanzialmente siamo ancora al buio, direi che sostanzialmente buio, continuiamo a ricomprendere la vecchia espressione le balle d'Egitto. Ieri Reuters ha rivelato in esclusiva che Giulio Regeni sarebbe stato fermato dalla polizia egiziana poco prima di sparire. Se qualcuno pensa che il trascorrere del tempo farà modificare la posizione del governo italiano, cioè se si pensa che col trascorrere del tempo rinunceremo a chiedere, a pretendere la verità sull'omicidio di Giulio Regeni, chi lo pensa si sbaglia. Siamo contenti che il ministro dica questo, anche perché onestamente un po' lo si pensa, perché va bene dire noi non molleremo il colpo, però qua il tempo passa e di verità non ne viene fuori mai nemmeno una, anzi direi che la maggior parte delle verità che ci propina l'Egitto sono offensive come tutte quelle dette finora. Mi stava quasi da venire ad elencare il pezzo di fumo sul piattino, il fatto che siamo stati assassinati da questo gruppo e che loro hanno tutti ammazzato, così non gli si può nemmeno chiedere se sono stati loro o meno. Insomma, qualcuno dice il ministro Gentiloni ha tirato fuori le unghie, ha tirato fuori un po' di personalità con questo caso Regeni. Gentiloni normalmente ha un profilo più proprio pacato, che mantiene anche adesso, ma che secondo alcuni invece con questo necessità di puntare i piedi sul caso Regeni stia tirando fuori una personalità inaspettata. Risultati al momento non ce ne sono, ma non dipende naturalmente solo dal ministro Gentiloni, così come non dipende probabilmente dall'Italia il fatto che si realizzi in Europa una proposta dell'Italia, ma che deve avere l'approvazione di tutti i paesi. La proposta è quella di creare un Eurobond, un finanziamento che parta proprio dall'Unione Europea, dall'Europa, per aiutare i paesi in via di sviluppo, i paesi africani da dove partono le migrazioni, per il famoso aiutiamoli a casa loro, una proposta che Renzi ha portato sul tavolo dell'Europa, ma che fino ad ora non si è concretizzata. Anzi, sentiamo in settimana lo scetticismo di Romano Prodi, che di Renzi, di PD, di Europa, di Africa un po' ne sa tanto, e di solito non è un euroscettico. La proposta degli Eurobond rende isterici i tedeschi. Ogni azione di solidarietà economica viene supportata a malapena, ecco. E poi vede ormai l'Eurobond, cioè avere titoli di credito, di debito comuni, è una specie di demonio, no? È ritenuto una specie di demonio. Ora è chiaro che prima o poi si dovrà arrivare a questo punto, no? Oh, e poi polemicuccia si fa per dire a livello planetario tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che a dire la verità non commenta, e il sindaco di Londra Johnson a proposito di Brexit, cioè del voto della Gran Bretagna a giugno sulla rimanere o uscire dall'Unione Europea. Il sindaco di Londra Johnson utilizza delle espressioni, entra un po' a gamba tesa, espressioni molto gamba tesa, che sono, qualcuno ha tacciato di razzismo. Sentiamo un pochino. And it's something to which the Americans would never submit their own democracy. America's a proud democracy built on principles of liberty. Parliamoci sopra, perché non si capisce, chi non sa l'inglese non capisce. Lui ha detto sostanzialmente Obama è contro l'ipotesi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, semplicemente perché essendo keniano d'origine è un mezzo keniano, quindi è contro l'impero britannico, proprio di DNA secondo DNA, lui è un'affermazione incredibile. Io non ho pesantuccia, non ricordo di affermazioni così tranchant nei confronti del presidente degli Stati Uniti. Devo dire che forse sta anche un po' pagando sono gli ultimi mesi di Barack. No, beh, ma al di là dell'affermazione che mi sembra dire, fuori no, luogo, avrebbe potuto però dire, cosa che probabilmente è vera, l'America mira ad indebolire la Gran Bretagna, questo ci sta, ma tirare fuori il fatto di origini keniane è una cazzata. Sì, e in più ci ha anche scombussolato tutti, perché io mi ricordavo che si dicesse keniota, allora qui non so esattamente. Forse si dice keniano, si dice male. Tutti i giornali, quasi tutti i giornali, ma non è un problema ovviamente del sindaco di Londra, è un problema nostro, della stampa. E adesso in Francia. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Qua si balla, hein? Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. E allora avete già capito dove vogliamo andare a parare? Avete già capito? Andiamo, io sì. Andiamo nella capitale francese dove troviamo Leonardo Martinelli. Buongiorno Leonardo. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno. Ben ritrovato. Adesso un pochino di tempo ce l'abbiamo per raccontarci poi la storia di questa canzone. Ce l'hai promessa? Non subito magari, però in chiusura di collegamento. Ma lì vi racconto ogni volta un pezzettino e poi dopo uno alla fine sa tutto. Facciamola così. È la vecchia teoria del pusher, insomma, ce ne dai sempre un pezzettino di modo che noi siamo obbligati a richiamare, certo. Sì, ci tieni lì sulle spine. Io sono molto d'accordo, così allora, ti chiamiamo tutte le settimane. Prepara il pezzettino perché tra un po'. Noi siamo venuti da te e chiediamo il tuo soccorso perché, insomma, in settimana c'è un'altra manifestazione, la Francia, che è un po' il paese dei diritti, dove l'asticella dei diritti è sempre più alta in Europa, ma forse nel mondo, adesso sta affrontando un momento di tempesta per quanto riguarda il lavoro, perché ci sono proteste per questo Jobs Act alla francese. E a che punto è la situazione? Ho visto che ci sono stati degli incontri con gli studenti, il primo ministro ha fatto delle aperture. Per cosa si protesta intanto, Leonardo? Beh, si protesta contro questo provvedimento, come dicevi, che è un equivalente del Jobs Act in Italia. In realtà è molto diverso, nel senso che non va così in là come il Jobs Act italiano, proprio perché a causa delle proteste, o qualcuno in Francia direbbe grazie alle proteste, il governo l'ha già ridimensionato. Non è chiaro dove si vada, probabilmente si andrà a un'approvazione, proprio perché il provvedimento alla fine è stato, diciamo, si è andato molto incontro alle esigenze sia dei sindacati che dei movimenti giovanili. Questo non è piaciuto per nulla al MEDEF, cioè alla Confindustria francese, quindi ora la polemica è molto con gli imprenditori che dicono vabbè, approvatelo, ma a questo punto è un provvedimento inutile, ecco, questo è un po' il loro atteggiamento. Poi bisognerà vedere se servirà a qualcosa, perché appunto la Francia è il paese, come dicevi, dei diritti, è un paese che proprio storicamente guarda molto alla salvaguardia anche della qualità della vita. La realtà dei fatti è che in Francia c'è una disoccupazione molto alta che continua a salire a differenza degli altri paesi europei, ci sono dei problemi oggettivi da affrontare. Quindi ci si barcamena tra questa voglia di mantenere alta la qualità della vita, alta la bandiera dei diritti, ma anche di creare un po' di occupazione e di fare conti con la disoccupazione. Resta con noi Leonardo, facciamo il traffico, torniamo tra un secondo e capiamo un pochino di più di questo si può fare in Francia, che tra l'altro riguarda anche l'utilizzo delle mail dopo l'orario di lavoro. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Ci stiamo provando in tutti i modi a farci raccontare la storia di questa canzone. Io già me lo vedo, Leonardo Martinelli sugli Champs-Élysées che cammina. Ah, pensavo su Wikipedia che va a cercare la storia di questa canzone. No, io ora non ci vado più, sugli Champs-Élysées ora ci vanno solo gli arabi ricchi, le gente. Infatti, no, perché Champs-Élysées non ci si va più. Perché è diventato un luogo troppo. Non è più alla portata. Ma non ci vanno neanche i parigini o i parigini? No, neanche i parigini. Cioè, andare sugli Champs-Élysées sei veramente caduto in basso. Ti chiedono il passaporto, fanno il controllo passaporto, ci sono i metal detector prima di entrare, più o meno. Cioè, ti ascolti la canzone e ti ricordi quello che erano gli Champs-Élysées, ma ora non ci vai. Ah, quindi anche nostalgia. Ne abbiamo parlato ieri tutta la mattina dell'effetto nostalgia. Leonardo, allora, questa questione dell'asticella dei diritti, che in Francia è sempre un passo più avanti. Allora, c'è questa notizia di qualche tempo fa che ti vogliamo chiedere di fare un bilancio, visto che parliamo di lavoro. Le mail, stop alle mail dopo l'orario di lavoro. Per qualcuno potrebbe essere, non so, un sogno, una strana visione, perché ormai siamo tutti attaccati, molti di noi, al telefonino, sembra una cosa imprescindibile. Non tutti guardano solo le mail di lavoro, però ci stanno in mezzo anche quelli, anche quelle in mezzo ai fatti privati, e magari il cervello continua a girare intorno a queste questioni. Ecco perché i sindacati hanno chiesto di dire basta. Sì, ci sono già innanzitutto alcune aziende che applicano questa regola, per cui dopo le 18 ad esempio non si possono mandare mail professionali. In alcuni casi tra l'altro proprio il sistema, non che lo rifiuti, ma c'è un pop-up che ti dice sei sicuro di volerlo mandare perché sei fuori orario, tu devi dire sì o no. E se non è urgente, dici no, e questa mail praticamente va automaticamente alle 8 della mattina. Cioè, come se tu avessi uno che ti mette il ditino sulla spalla, che ti fa, ehi, siamo oltre 18, fermi. Allora, questo già è applicato in alcune aziende, tra l'altro già dal 2014 era stato raggiunto un accordo nella categoria, diciamo, delle aziende tecnologiche, così viene applicato proprio nelle filiali francesi di Google, Facebook, in questo tipo di imprese. Però ritorniamo proprio a questo progetto di legge di riforma del mercato del lavoro di cui parlavamo prima. Ci sono un sacco di polemiche, ma l'unico articolo che è accettato da tutti, anche dalla Confindustria, è proprio un articolo che riguarda l'invio delle mail professionali fuori orario di lavoro. Allora, non si mette una regola fissa, cioè dopo le 18 non si possono mandare le mail, ma si impone alle aziende con più di 300 dipendenti di fare un negoziato interno e poi di arrivare a un accordo scritto, e si specifica anche di introdurre questi, diciamo, che nella legge vengono chiamati strumenti tecnologici, cioè questo pop-up di cui parlavo prima, cioè questo sistema per cui ti si blocca automaticamente la mail se sei fuori orario, se tu giudichi che appunto non è necessario mandarla in quel momento. Però quello che mi chiedo è che a volte ci sono delle emergenze, io capisco benissimo la motivazione perché è troppo semplice, perché poi una volta che il tuo capo ti manda una mail, se te la manda alle 21, se tu guardi le mail magari per i fatti tuoi, vedi che quella del tuo capo, la leggi, ti senti in colpa, e rispondi, quindi è comprensibilissimo la motivazione dei sindacati. La cosa che mi chiedo è il fatto proprio di vietarlo, nel senso che immagino che giustamente tu sottolineavi che ci sono le aziende con più di 300 dipendenti, perché magari aziende più piccole le cose funzionano anche in maniera più semplice, che uno magari anche alle 8 manda una mail e poi non si aspetta la risposta, si aspetta che il proprio dipendente risponderà la mattina successiva. Però sì, guarda, nella realtà è difficile da applicarlo, tra l'altro alcune aziende che lo hanno applicato, come Areva, che è il grande gruppo nucleare, quindi una multinazionale, loro hanno fatto proprio una direttiva interna per la quale non si possono mandare mail a colleghi prima delle 8:30 la mattina e dopo le 18. Questo è già stato introdotto da vari mesi e c'è stato un reportage in un giornale francese dove spiegavano che in sostanza non funziona, cioè non si fa mai un aperitivo, tra l'altro, perché se non puoi mai mandare una mail dopo le 18. Cioè, diciamo che il, come dire, questa legge effettivamente specifica il fatto che ogni azienda deve un po' decidere per conto proprio, quindi deve un po' adeguarsi anche alle esigenze diciamo del suo settore. Diciamo che dà uno strumento alle aziende, se magari d'accordo con i lavoratori vogliono decidere di limitare il flusso delle mail dopo una certa ora, lo possono fare. Uno strumento di legge. Sì, con una certa flessibilità. Ora, va detto che effettivamente i francesi certe volte hanno la sparano grandi grossa, lo dico io. No. hanno delle grandi aspirazioni e poi si scontrano un po' con la realtà, cioè diciamo che quello che è la durata del lavoro, dell'orario di lavoro, è un tema importante per i francesi perché si collega a quello della qualità della vita. Infatti la Francia dal 1999 è l'unico paese in Europa ad avere le 35 ore settimanali, certo. Ma la cosa che mi sembra importante in realtà è accendere un riflettore sul problema, perché molte volte uno manda la mail e pensa che sia dovuto di avere una risposta, invece non è assolutamente così. Alle 21, se uno sta lavorando, può non rispondere alle mail. Ed è proprio credo sia importante discuterne. Quello che volevo dire è che certe volte loro si lanciano anche in cose appunto illusorie, perché comunque anche questo regime delle 35 ore settimanali, no, per carità, è molto per chi ce l'ha, cioè per i lavoratori dipendenti in Francia è qualcosa di vantaggioso, è vero, la qualità della vita. Chi non ha un lavoro guarda tutto questo come se fossero dei marziani, ed è per questo che noi guardiamo la Francia, per capire da che parte andiamo. Grazie Leonardo Martinelli, non c'è tempo per Gio Dassin, sarà okay, per la prossima volta, per forza. Ci risentiamo di sicuro. Ci abbiamo il giornale radio, anche gli ascoltatori, Maurizio da Como, Roberto da Trento, ci risentiamo dopo il GR, cerchiamo un personaggio della settimana, è un simbolo 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ben ritrovati con Si può fare, la seconda ora, stiamo insieme fino alle 10. Cominciamo con un ripassino di qualche notiziuola della settimana, sempre a caccia di buone notizie, di buone pratiche, quando possibile. Siamo partiti oggi dalla Francia, che vuol mettere lo stop, anzi ha messo lo stop alle mail dopo l'orario di lavoro. Insomma, noi in Italia parliamo di lavoro agile, di telelavoro, si lavora da casa, quindi ci liberiamo dall'incubo del viaggio da casa al lavoro. Invece loro tolgono anche le mail. Anche perché se si lavora a casa senza le mail è un disastro. No, ovviamente scherziamo, nel chissà senso come va a finire, che, chissà chi ha ragione. Il divieto di mandare mail fuori dall'orario di lavoro, perché sennò poi va a finire che si lavora 17 ore al giorno. 800 24 00 24, vi aspettiamo però anche per il personaggio della settimana. Esatto, il personaggio della settimana, che abbiamo detto è un simbolo. Tra poco sentiamo qualche telefonata, prima di chiacchierare con Filippo D'Averio, perché abbiamo delle notizie che riguardano la cultura, come direbbe qualcuno, molto importanti, ma tra poco. Adesso cosa sentiamo? Beh, sentiamo la polemica tra Davigo e La politica, i politici corrotti, eccetera, eccetera, la difesa dell'esponente del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Il PD sta attaccando un magistrato che io credo nessun cittadino italiano possa smentire. Invece di attaccare Davigo, dovrebbero provare a guardare in casa loro. Insomma, questa è una questione che è stata sotto i giornali. Davigo, che c'è anche poco da dire, cosa dobbiamo ha detto i politici non hanno mai smesso di rubare, solo che adesso non se ne vergognano più. Il problema è l'utilità in questo momento di riaprire questa polemica. E poi sempre Di Maio, che svanita l'ipotesi di nominare il leader del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni con le primarie online, come si era detto all'indomani della morte di Casaleggio, invece è stato smentito da diversi esponenti del movimento stesso. Rinasce però un'altra ipotesi abbastanza curiosa, sì, interessante, sì. È un si può fare anche questo: ministri scelti per bando. Per bando, e anche assessori, sì, scelti per bando, perché da un certo punto di vista, anche molto comprensibilmente, dicono non possiamo fare tutto con le nostre forze interne, cerchiamo risorse nate, umane, e quindi cerchiamo risorse di persone capaci. Sentitelo, mi chiedo qua, se attraverso questo bando in realtà chiedono alle persone anche di rinunciare al proprio stipendio. Non siamo convinti di poter governare questo paese solo contando sulle nostre forze, ma vogliamo prendere tutti coloro che hanno fatto esperienze, che hanno delle competenze e, perché no, che hanno avuto anche esperienze passate nella pubblica amministrazione, e dargli l'opportunità di provare tutti quanti insieme a invertire la rotta. Il bando è un termine, secondo me, che vale principalmente per un comune. A livello nazionale è un bando. Va bene, questo è Di Maio, è sulla notizia che verranno scelti, qualora dovessero vincere le elezioni in alcuni dei comuni nei quali si vota, al momento a Roma, il Movimento 5 Stelle è in vantaggio, ecco, ci sarà un bando per scegliere gli assessori. Beh, la BBC rimase famosa la notizia che per cercare il nuovo presidente, direttore non ricordo, fece un bando. Noi siamo abituati alla nomina, politici che nominano tutto, e siamo abituati agli amici degli amici. Va bene, una novità, staremo a vedere. 800 24 00 24, c'è Maurizio che ci chiama da Como. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Eccolo qua. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire? Volevo proporre il personaggio della settimana, che ho pensato potrebbe essere la regina Elisabetta. Per quale notizia? In realtà perché ha compiuto 90 anni. Esatto, perché volevamo sentirtelo dire, non è che siamo così ignoranti. Perché ha il periodo più lungo di regno del Regno Unito e ha battuto qualunque simbolo, record. Assolutamente. Simbolo, assolutamente. È un simbolo. C'è qualcuno che suggerisce, Maurizio? La moglie? Vivi con la regina? Vivi con la regina Elisabetta? Esatto, sì, con la mia regina che mette sempre il becco. Cosa voleva dire la regina? Che è un simbolo per gli inglesi. Ecco, sì. Bene, ecco, si voleva ricollegarsi all'indizio che abbiamo dato, perché in effetti noi cerchiamo un simbolo che in questo caso però non era proprio lei, regina. È tutto giusto, hai risposto a tutte a tutti gli indizi in maniera corretta. Abbiamo chiesto se tua moglie aveva un'altra idea, perché magari correggeva il tiro e diceva il nome giusto. Purtroppo non è la regina Elisabetta. Però il notaio non vuole che si diano doppia risposta. Esatto, è vero. Se la moglie vuole richiamare, a questo punto deve Separarsi, esatto. Credo, prima, sì. E poi telefonare. Paola da Roma, buongiorno. Buongiorno. Sì, volevo buongiorno. Anche io provare a dare la risposta. Vediamo. Io ho pensato Máxima Acuña, il Nobel per l'ambiente. Nobel per l'ambiente, volgarmente detto Nobel, in realtà è il Goldman Environmental Prize, penso che si tratti di quello. Noi siamo degli esperti, perché sentiamo spesso Ercolini, che è il nostro vincitore italiano del Nobel per l'ambiente. Paola, è una bella notizia. Qual è la storia di Máxima Acuña? Ce la vuoi tratteggiare in due parole? Sì, lei ha rivendicato l'autonomia delle terre sulle quali vive insieme alla sua comunità contro la spinta di multinazionali, di grandi corporazioni per l'acquisizione di questi terreni per scopi estrattivi. Quindi le miniere d'oro, sì. Sembra di essere ancora ai tempi di due secoli fa, e invece questa è un po' la realtà ancora del Perù, perché lei è peruviana. Paola, è una bella notizia questa, lei è un simbolo, sicuramente non cercavamo proprio lei in questo caso, quindi non è lei il nostro personaggio. Grazie però per averci chiamato e per aver ricordato questa storia. Sì. Allora andiamo con Roberto, che chiama da Trento. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ascoltami, io pensavo che il simbolo fosse Prince, che è morto da pochi giorni. Perché certo. A un certo punto della sua carriera, con polemiche con le sue case discografiche, non si fece neanche più chiamare Prince, e invece si usò degli acronimi o un simbolo che fu in tutti i suoi dischi successivi, diciamo. Ma comunque. Lasciamo rispondere Prince, e in realtà siamo contenti che tu abbia ricordato, perché ricordiamo con affetto Prince, ma non era il personaggio che stavamo cercando. È vero che questa battaglia che lui ha fatto contro le major discografiche, io per esempio non la ricordavo, ed è una notizia invece importante che riguarda la carriera di questo strepitoso artista. Poi può piacere o non piacere, ma insomma ha segnato la cultura musicale. Assolutamente. E la notizia di oggi in realtà su Prince è che pare che nella sua cassaforte ci siano migliaia di inediti, così ho letto. Quindi penso che potremo ascoltare Prince per i prossimi 4500 anni. Roberto, grazie per aver chiamato anche su questo personaggio della settimana. Non era Prince. 800 24 00 24, cerchiamo un simbolo. onexpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Eccoci qua rientrati di nuovo, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Allora, ascoltatori, stiamo cercando un personaggio della settimana. Tra poco vi diamo un altro indizio, però raccogliamo su ancora qualche telefonata per vedere se Giovanni da Milano, per esempio, ce l'ha fatta con il primo indizio. Non credo sia mai successo. Però. Già, Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Volevo dire a quello di voi due che dice sempre di essere il più stupido. Sono io, presente. scusami, non ammetterlo. Lascia che siano gli altri ad avere il dubbio. Giusto. Anche se sei simpatico. La ringrazio, okay? La ringrazio moltissimo. Però, beh, però è anche un bel po' che non lo dicevo. Però effettivamente è vero. Adesso riprenderò a dirlo. Ma in realtà Giovanni ha un modo proprio furbo per evitare di farselo dire agli altri. No, no, non è vero. Dice, scusa. No, ma ne ho la certezza. Poi sono semplicemente lo più stupido dei due. Quindi è semplicemente un complimento ad Alessio. Ciao Giovanni, avevi chiamato per questo? Sì, no, ho chiamato per dirvi, io pensavo a Totti perché lui è un simbolo e dopo l'esploit che ha fatto mercoledì mi pare nella partita, credo che sia lui, posso anche sbagliare. Beh, è tutto giusto, che sia un simbolo non c'è dubbio. Un esploit clamoroso perché ricordiamo che cosa ha fatto Totti a quasi 40 anni. Sì, quasi sulla quarantina, a questa piccola diatriba con Spalletti. No, ma che cos'è che ha fatto? Ricordiamo la notizia. È entrato in campo negli ultimi 2-3 minuti, adesso non mi voglio sbagliare. Sì. Ha segnato prima un gol a un'entrata su azione. Su azione e poi ha realizzato la doppietta su rigore. Cambiando il risultato della partita, la Roma stava perdendo e ha vinto Torino la partita. 3-2, è stato un momento straordinario per un grandissimo simbolo, quale è Francesco Totti, però non era lui il personaggio. Non era lui il personaggio, ma siamo contenti di averlo ricordato. Di domenica. Era un trappolone questo, perché noi abbiamo in mente un altro simbolo, cari ascoltatori, però abbiamo detto sicuramente chiamano per Totti, perché questa era la settimana forse di Totti dal punto di vista sportivo. Carlo, diamolo un altro indizio? Aspetta. Bene, ancora, scusa. Ma niente. Devo ancora tirar su Marino da Padova. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Che vuol dare una risposta sul primo indizio, Marino? Sì, avevo pensato a Pier Camillo Davigo, simbolo di Mani Pulite, visto che poi in questi giorni c'è stato appunto un po' di polemica, diciamo anche politica, anche se ho sentito poco fa che avete fatto appunto un servizio su questa notizia, per cui poi mi è venuto il dubbio che non è detto perché noi non è che siamo fiscali, può anche essere una cosa di cui parliamo. Comunque è un ascoltatore attento, perché effettivamente poteva dare adito al fatto che non fosse lui. La notizia c'è di sicuro, che sia un simbolo non c'è dubbio, ma non era il personaggio che abbiamo scelto per questa settimana. Ma la ringraziamo molto di aver chiamato. Anche questo era un bel trappolone, forse no, ma Gioconda da Genova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, per me era Vespa. Chi? Perché compie 70 anni, ieri ha compiuto 70 anni. Ah, Vespa, Bruno Vespa. Bruno Vespa parliamo? No, la Vespa. Infatti dicevo 70 anni, ma l'ha già passato Bruno Vespa. La Vespa, certo, come no, l'abbiamo detto anche ieri, lo storico scooter, ma in realtà si dice Vespa, non c'è sinonimo. Certo. Nato 70 anni fa dalle parti di Genova, ma in realtà prodotto dalle parti di casa mia, Pontedera, che io sono di Pisa. Straordinaria Gioconda. Perché è un simbolo per me, perché l'Italia che vuole crescere, che vuole uscire dalla guerra e crescere. È un simbolo per questo. Ma che sia un simbolo non c'è lei dubbio. Quanti anni ha Gioconda? Lei quanti anni ha? È più giovane della Vespa o... Sono un pochino più giovane, ma poco più giovane. Quindi per lei l'ha accompagnata, diciamo, dalla nascita per tutta la vita? Sì. Come poi anche per tutti noi. Io l'ho avuta, chi non ha avuto una Vespa nella vita? Tu? Non ho la patente, ma ho il motorino. Gioconda, grazie per averci chiamato. In effetti, ci stava, non è il personaggio che avevamo scelto. A questo punto diamolo l'indizio, perché sono le 9:22, se no qua andiamo avanti a molto simboli volentieri. Fino a dopodomani. Secondo indizio, al nostro personaggio lo sport ha salvato la vita. Quindi andate a cercare un simbolo e anche qualcuno che salvato dallo sport. Avete già detto qualche nome riguardo allo sport, pensate qualcos'altro. 800 24 00 24. Vale anche richiamare per dire Totti. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Allora, prima di parlare della prossima notizia, che è una buona notizia anche se ha a che fare con uno dei più grandi disastri della storia dell'umanità, parliamo di Chernobyl. Proprio non si può fare per noi per quello, sì. Nel senso che si parte da una notizia terribile, esatto, e si trova all'interno. Che sarà il 26 aprile del disastro di Chernobyl, e ne parliamo tra un attimo. Però voglio farvi sentire una voce che ha a che fare con l'ambiente, ed è la voce di Leonardo DiCaprio. It's time to declare no more talk, no more excuses, no more 10-year studies, no more allowing the fossil fuel companies to manipulate. Non più scuse, basta discussioni. È arrivato il momento, ha detto DiCaprio parlando davanti a consesso, niente proprio di meno che a New York, dei rappresentanti delle Nazioni Unite, ma di tutti i paesi, 175, che hanno dato il loro endorsement all'accordo COP21 di Parigi, un accordo importante per quanto riguarda l'ambiente, il contenimento dell'aumento della temperatura, bla bla bla, lo sapete benissimo, lui ha fatto la testimonial. E c'è stato questo endorsement, quindi adesso poi vedremo. È arrivato il momento, hai detto, io pensavo, è arrivato, sì, il momento di pulire l'Oscar, visto che finalmente l'ha vinto. Esatto. E quello, no, comunque lui se ne occupa da molto di ambiente, non è che non è frutto dell'Oscar il fatto che lui sia il testimonial della questione COP21. Ci, e ha detto, poi siete delle l'ultima facce. Speranza sulla terra, l'ultima speranza della terra, per invitare tutti a firmare. Ci vogliono poi delle facce che ci comunichino qualche cosa. E va bene, questa notizia lasciamocela alle spalle e pensiamo soltanto al fatto che finché non aderiscono gli Stati Uniti e la Cina, che hanno detto sì, aderiremo a COP21, manca ancora, diciamo, il grosso della faccenda, ma questo lasciamocelo alle spalle. E adesso torniamo a Chernobyl e salutiamo Fabrizio Pacifici, che è fondatore della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Che da molti anni, per l'esattezza da 1992 è l'anno di costituzione della Fondazione. Dal 1988 noi lavoravamo già per questi bambini. Esatto. 25 anni, diciamo. 25 anni. Perché quest'anno sono i 30 anni trascorsi da quando quel giorno del 26 aprile dell'86 il reattore nucleare della centrale di Chernobyl esplose. E da allora che cosa è successo? Intanto poi arriviamo anche alla notizia. È successo che ci sono state ufficialmente censite, perché in quel momento i paesi coinvolti, principalmente l'Ucraina e la Bielorussia, stavano sotto l'Unione Sovietica, e quindi le notizie, esatto, filtravano, esatto, in maniera, ci arrivò molto tardi la notizia, quantomeno controllata, l'avvenimento. Si dissero 65 vittime, poi però negli anni si è parlato fino a 9.000 vittime. Sì, diciamo che sono sempre dati molto molto superficiali e non reali, non di fatto, perché non c'è stata mai la possibilità di andare a censire questi tipi di mortalità, perché non il sistema politico di allora dell'ex Unione Sovietica, ma anche quella attuale. Lei lo conosceva bene, Pacifici, perché lei a quell'epoca ha una storia particolare. Lei viaggiava proprio in quei paesi perché era, cos'era, un membro, un funzionario in qualche modo. Io ero proprio il segretario della Federazione Giovanile Comunista, ero della FGC, e come tutti coloro che militavano nella FGC di allora, se il partito decideva di puntare su di te, ti mandava a scuola a Mosca di formazione, si faceva formazione a Mosca e si faceva formazione all'Istituto Frattocchia di Roma. Sì, e per, certo, cui io ero a Mosca a studiare per diventare dirigente. Quindi del partito in uno comunista di questi viaggi che lei ha fatto dopo il disastro, no, diciamo, di Chernobyl, a un certo punto lei prese coscienza del fatto che, se non altro, non si stava, no, dicendo, diciamo, tutto quello che accadeva. Più che altro fui quasi indotto a questo, perché incontrandomi con un gruppo di medici lì nell'ex Unione Sovietica a Minsk, siamo nella Repubblica di Belarusia oggi, ma allora era tutta ex Unione Sovietica, mi chiesero di andare a visitare la pediatria dell'ospedale numero 9. Siccome al tempo non è che si potesse fare quello che volevi, dovevi stare lì, studiare, e avevi un protocollo da rispettare. Feci finta di star male, presi un taxi e andai a vedere questa pediatria, e lì mi cambiò la mia vita totalmente, perché vidi bambini morire di leucemia, tumore alla tiroide, al cervello, mamme che mi chiedevano di aiutarle, per disperate. E allora lì le venne l'idea di aiutarli come? Creando una ospitalità in Italia per un periodo dell'anno ai bambini della Bielorussia. Appunto, venni a casa per la verità e non riuscivo più a... Intanto le discussioni furono infinite all'interno del partito, tanto che fui cacciato, per la verità, da colui che doveva diventare dirigente del partito. Dovetti uscirmene perché nessuno mi credeva, ma non era neanche colpa loro, perché effettivamente le notizie erano segretate ed effettivamente nessuno parlava del disastro nel 1991. Nessuno parlava di tutti questi morti e di tutti questi bambini che morivano. Cioè bisognava avere visto per sapere veramente quello che era accaduto. Visto, bisognava aver toccato con mano, diciamo così. Quando io venni poi qui in Italia, non potendone parlare con nessuno, mi ritrovai nella mia città a parlarne con un frate, dei frati minori conventuali di Assisi, e lui mi ascoltò e mi... Io poi, tra l'altro, che ero ateo, non avevo mai visto una chiesa, perché mi servivano delle famiglie, ovvero mi ero messo in testa di ospitare, di portarli qui, di poterli aiutare, portarli in ospedale, insomma fare qualcosa. E quello che sembrava solo un'immaginazione sua, un sogno, un'utopia, è diventato poi una realtà, perché in questi 25 anni, non so se avete un numero esatto di bambini che avete ospitato in Italia grazie a queste famiglie, ce l'ha un numero? La Fondazione Aiutiamo a Vivere in tutti questi anni ha ospitato oltre 60.000 bambini in tutte le famiglie italiane, e tra l'altro il dato complessivo invece del movimento, perché poi a seguito di questo tante altre città, tante altre sono nate, tante altre organizzazioni come la nostra, per cui 380 organizzazioni in tutta Italia ci sono che fanno attività di questo tipo, che hanno portato a un dato complessivo, glielo posso dare con assoluta certezza perché io sono il responsabile all'interno del Ministero del Lavoro del Comitato Minori Stranieri che censisce l'andirivieni di tutti questi bambini, sono 600.000. Quindi la grande solidarietà delle famiglie italiane, perché poi la notizia piano piano, un po' lentamente, ma era inarrestabile, si diffuse, si venne a sapere quello che stava succedendo veramente, allora si riuscì poi a garantire dei periodi di cura, dei periodi di serenità per questi bambini all'estero e in Italia in particolare con questi numeri, e sono nate anche delle storie incredibili. Qua avviene veramente il bello della faccenda. In collegamento con noi c'è anche Miscia. Buongiorno Miscia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Un ragazzo bielorusso che oggi ha l'età di? Di 31. 31 anni. Vabbè, in Italia si è ragazzi fino ai 57, quindi... Quindi ancora assolutamente ragazzo, ma lui lo è veramente. E la prima volta che è venuto in Italia, ospite di una famiglia di Tassullo in provincia di Trento, avevi 11 anni, è vero Miscia? Sì, è vero, avevo 11 anni. Ecco, e da lì poi la tua vita ha preso, come capita sempre quando ci sono di mezzo gli incontri, ha preso una piega particolare, perché tu, adesso raccontiamo anche come, ti sei appassionato ad una delle tradizioni della cultura italiana, che è il canto. Sì, è vero, ma la storia è cominciata un po' prima, perché l'Italia mi ha regalato... La probabilità di diventare un traduttore dell'italiano, perché quando sono venuto in Italia per la prima volta, perché non capisco niente, non posso spiegare quello che vorrei in italiano. Certo. Quando sono tornato in Bielorussia, nel mio piccolo paese che si chiama Selivonovka, che non è molto lontano da Chernobyl, ho deciso di imparare la lingua italiana. Ecco, i miei amici, Carlo Dorizzi, Germano Dorizzi, mi hanno regalato tanti libri, dizionari. Ecco, e allora, tra le cose che ti hanno regalato, scusa Miscia, vado al punto nel quale poi la tua vita prende una piega particolare, tra le cose che ti hanno regalato, correggimi se sbaglio, una cassetta di Pavarotti. Lì nasce la tua passione, che poi avrà degli sviluppi. Sì, è vero, ma mi hanno regalato... miei amici, proprio la mia famiglia italiana, Maria Zitter, Fabio Bruni. Devo dire che non ho sentito mai tanto lirico prima, allora ho cominciato ad ascoltare questa audiocassetta e ho deciso di lasciare di diventare un traduttore, perché ho deciso di cantare come quelle tenori. Non sapevo chi sono questi cantanti, Carreras, Pavarotti, Domenico, ma volevo cantare proprio così come loro. Non sei l'unico, a tutti piacerebbe, ma a te riesce anche, Miscia, perché tu sai cantare, poi hai scoperto di avere una dote anche, no? Naturale. Sì, anche in Italia, anche quando sono tornato in Italia, un maestro, Giorgio Larcher, sì, mi ha detto: Miscia, tu sei tenore. E tu hai detto che fortuna, e tu hai detto io sono bielorusso, perché proprio in Italia mi hanno detto che io sono un tenore e posso cantare, che ho una voce da tenore. E quando sono tornato in Bielorussia avevo un problema, non pronunciavo la lettera R. Allora dovevo andare dal logopedista, perché non esistono cantanti lirici che non pronuncia bene la lettera R. È così importante la lettera R. Ci fai sentire qualcosa? Dillo a me adesso, senti che R che ho. Io ci fai sentire non canto. Qualcosa, Miscia? Un'aria che ti piace particolarmente? Con la R, però, chiaramente. Mi piace molto canzoni napoletani. Per esempio. Parlami d'amore, ma io mazzate tutta la mia vita sei tu. Ma che bravo, Miscia! Gli occhi tuoi belli brillano. Vabbè, ci hai trapanato le orecchie in questo momento. Però quest'ora. Complimenti, però. E devo dire, anche il tuo telefonino evidentemente ti vuole bene, perché sentiamo abbastanza male la telefonata, ma quando canti è perfetto, invece. Senti che ti hanno fatto partire anche l'applauso dalla regia, Carmelo Lauricella. Miscia, al di là poi di questa tua passione, che ha coinciso con una tua dote naturale, che è quella di saper cantare, tu poi hai fondato in Bielorussia un'associazione che porta avanti la lirica, anche la lirica italiana. È così, vero? Non è proprio lirica. Adesso faccio direttore artistico di un gruppo, di un complesso di canto che si chiama Modena. Modena, vedi? Tac. È nella tua città sei? Dov'è che fai questa cosa, Miscia? Io faccio qui in mia città, Bielorussia, che si chiama Recic. E io ho questo complesso che si chiama Modena perché come sapete la Modena è la città natale di Pavarotti. Certo. Per avvicinarsi da maestro, io ho deciso di dare questo nome al mio gruppo, Modena. Noi cantiamo tutto bello, canzoni napoletani, un po' di lirica, canzoni bielorussi, russi, cantiamo tutto. E chi l'avrebbe detto che finiva tutto così? In musica, Miscia, è una storia incredibile. Fabrizio Pacifici, qual è però? Posso salutarlo? Certo. Abbiamo fatto Carramba. Ciao Fabrizio, ti saluto. Abbiamo fatto Carramba oggi qui a Si può fare. Davvero. Però diciamo anche una cosa, Pacifici, perché ci sono ancora molti bambini oggi che vivono in posti dove la radioattività è ancora presente, vero? Assolutamente sì, e bisogna. Lasciatemi fare un appello a tutte le famiglie che ci ascoltano, che se vogliono continuare a dare una speranza a questi bambini, che avete sentito Miscia, cambia totalmente la vita, ma soprattutto cambia a loro la possibilità di avere una possibilità in più di salvarli, di non arrivare a malattie importanti come quella della leucemia, del tumore. 30 giorni, 60, 90... Cioè basta mettersi a disposizione, accoglierli per un mese, da loro la possibilità di abbattere il 30% delle radiazioni che hanno in corpo, 30 giorni di aria pulita, di cibo pulito, fuori da quei luoghi hanno permesso a Miscia di diventare quello che è, ma soprattutto di salvarlo da una possibile malattia. E questo io credo che sia ancora una delle cose più importanti da fare, e se le famiglie vogliono farlo basta che contattino la fondazione Aiutiamoli a Vivere, aiutiamoliavivere.it, sul sito vedono tutto, possono guardare tutte le nostre progetti, organizzazioni e tutto ciò che ancora c'è bisogno da fare per questi bambini. Complimenti Pacifici, complimenti alle famiglie italiane della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, complimenti a Miscia, salutiamoci intonando tutti insieme Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita. Ciao Miscia, grazie. Ciao Pacifici. Ciao, grazie mille. In bocca al lupo e complimenti. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto, tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo. Omaggio a Prince, vogliamo sentire anche il messaggio mandato da Checco Zalone al ministro per la giustizia Orlando, ma non solo, in realtà a tutti, sul tema delle carceri. Sentite che cose interessanti che dice Checco Zalone. Non ha scelto male Orlando, secondo me, sulle carceri. Sentiamo un po'. Questo ministro mi è stato simpatico per telefono, devo dire, perché ha detto che sta tentando di parlare di detenzione, di problemi legati alla detenzione nelle trasmissioni televisive, ma non se lo crede nessuno, perché dice che non fa audience. Poi sono andato su Wikipedia a vedere la faccia, perché sinceramente non ce l'avevo presente. All'inizio non volevo fare questo video, poi mi sono ricordato che io sono anche una persona non stupida, diciamo, ho studiato il diritto costituzionale. C'era scritto all'articolo 27 che la detenzione deve avere una funzione anche rieducativa. Purtroppo sappiamo che non è così. Noi tendiamo poi ad allontanare le persone che hanno subito una condanna. In realtà la parte più bella viene dopo, ma non abbiamo l'audio, perché lui dice: sogno un mondo nel quale uno va in banca a chiedere un prestito e dice: io sono un ex carcerato, e il direttore della banca gli fa, sembrava un pezzo di Benigni, no? Gli fa: ah, complimenti, certo che glielo facciamo il prestito, lei viene dalle carceri, quindi lei è una persona rieducata, è addirittura migliore di quelli che non ci sono mai stati in carcere. È un rovesciamento della realtà, che è un, certo, po' un sogno. E poi aggiunge, bella, anche molto bella, vorrei che venisse Checco Zalone. Vorrei che venissero eletti in Parlamento ex detenuti che hanno seguito un percorso di rieducazione. Direi che al momento ci stiamo occupando dell'altro meccanismo, ovvero che stiamo aprendo le carceri a ex parlamentari, ecco. Allora andiamo con Giuliana, che chiama da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Prego Giuliana. Io chiamo per il, sì, personaggio. Chi è? E pensavo alla Pellegrini, la nuotatrice Federica. Per quale motivo? Perché è un simbolo, certo. E perché va alle prossime Olimpiadi. Sì, però lo sport, diciamo, ha salvato la vita. Nuoto. No, sì, assolutamente tutto giusto. No, ci stavamo chiedendo se c'era una notizia in questa settimana che riguardasse, sì, in questa la Pellegrini. Perché in questa settimana l'hanno, adesso io non so dirle proprio tutto, è stata... ha vinto forse le prove, le finali, che ne so, le prove, e va alle prossime Olimpiadi. È tutto giusto. La bandiera per le Olimpiadi, quindi la notizia c'era, Giuliana, ma non è il personaggio che abbiamo scelto. È un altro personaggio a cui lo sport ha salvato la vita. Esther da Savona. Buongiorno. Pronto? Esther, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io per il personaggio volevo rispondere Martina Caironi, che sarà la portabandiera alle Paralimpiadi, la portabandiera azzurra di Rio 2016, e che è la primatista mondiale dei 100 metri e che nel 2007 ha avuto un incidente stradale, ha perso la gamba e però si è messa a correre questa cosa. Cavolo, Ester, la sua risposta ci mette in grandissima difficoltà, perché purtroppo, cioè, tecnicamente la risposta non è esatta. Cioè, la risposta non è ci esatta. Mette in difficoltà perché non possiamo parlare in questo momento, perché sennò aiutiamo altri ascoltatori. Ho la sensazione che ci risentiremo. Ascolti la trasmissione fino alla fine, ecco, Matteo, diciamola così. Matteo da Milano, grazie. Buongiorno Matteo. Buongiorno, chiamavo anch'io per il personaggio. Sì, sì. E pensavo a Ibrahim al-Hussein, che è un profugo siriano che ha perso la gamba durante la guerra e porterà la fiaccola olimpica in questi giorni nei pressi di Atene, vicino a un campo profughi. È un doppio applauso, ecco, perché ci hai anche tolto dall'imbarazzo, nel senso che già iniziando con la Pellegrini eravamo nel mondo olimpiadi, mondo portabandiere, paraolimpiadi, e il personaggio è assolutamente lui, un bellissimo personaggio che appunto fa il portabandiera, è stato anche campione di nuoto e judo e adesso continuerà nelle paraolimpiadi. Scusami se ti correggo, non fa il portabandiera, fa il tedoforo, infatti l'imbarazzo nostro era quello, perché la telefonata di prima, che ricordava l'atleta paralimpica che farà da portabandiera per l'Italia, ci ha messo in difficoltà, perché in effetti poteva tranquillamente essere lei il nostro simbolo di questa settimana. Invece noi abbiamo scelto al-Hussein, che porterà la torcia olimpica all'interno di un campo profughi all'interno della staffetta, e ci sembrava davvero una notizia straordinaria, un bellissimo si può fare. Matteo, bravo, complimenti, grazie. Grazie. Porti a casa i biglietti e il catalogo della mostra di Miro allo Splendido Mudec di Milano. E devi andarci con l'ascoltatrice che ha chiamato prima, quindi poi dopo vi giriamo i numeri. Secondo me sì, traffico. Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi, sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli, scaloni, e son rimasto senza fiato quando mi son ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito nella vita il significato e il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che l'orto... E allora, come sempre quando scegliamo questo tipo di musiche, avete già capito di cosa andremo a parlare. Però voglio fare questa premessa. Ti ricordi, si diceva un tempo la casalinga di Voghera? Certo. Chissà perché, no? Chi è che ha inventato questa espressione? Beh, è un film di Nanni Moretti, dove c'era la casalinga di Voghera che rispondeva a un dibattito. Adesso si potrà parlare anche di orti sociali di Voghera. Non so se avranno la stessa popolarità. Speriamo di più. In Italia e nel mondo, ma questa è la notizia che ci è molto piaciuta. È una storia che riguarda gli orti sociali e riguarda Voghera, e con noi il fondatore degli orti sociali di Voghera, l'ho detto 8 volte ma non potevamo fare altrimenti, Moreno Baggini. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Buongiorno. Allora, perché ci piace questa notizia? Ci sono orti sociali, orti urbani in tante città, tante esperienze, tutto un movimento, però qua veramente mettete insieme tutto: il movimento, il ritorno alla terra, i prodotti a chilometro zero, l'agricoltura buona, ma anche il recupero delle persone che hanno avuto dei disagi, dei problemi, delle difficoltà, il tutto su terreni che sarebbero incolti, e questa è la cosa che ci fa più male, vero Moreno? Esatto, esatto, nel senso che il progetto è nato nel marzo del 2014 cercando di coniugare due elementi fondamentali per la mia persona, nel senso che sono l'agricoltura e il sociale. L'agricoltura perché provengo da un mondo agricolo,